Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti voi, cari ascoltatori, gentili ascoltatrici. Siamo qui anche stasera per così tenervi compagnia per un'ora. E un saluto da Gesi e da Antonio. Eccoci qua, caro Antonio. Forze, il Dream Team è di nuovo qui. Vabbè, dai, dopo le varie influenze, le varie cose, quest'anno è stata un'influenza piuttosto... Nessun problema. Allora, noi diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze 88,70 e 94,60 in FM. Per chi lo desidera, naturalmente, segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Questa sera abbiamo un ospite particolare, un ospite virtuale, anzi, alla memoria. La memoria di un cantore della civiltà contadina, di uno che Storie de Noaltri ne ha esplorato a Iosa, Bruno Lorenzon, scrittore roncadese, che è mancato di questi tempi 10 anni fa, e per questo vorremmo fare una puntata monotematica con alcune delle sue briose narrazioni. Benissimo, Antonio, quindi l'ospite in studio questa sera sarai tu. Ecco. Leggerò naturalmente anche come voce narrante delle sue ultime opere, diciamo, che voluto espressamente dall'autore, quindi io mi sento anche in dovere di fare queste. Benissimo, benissimo. Allora ci ascoltiamo e salutiamo qui il nostro grandissimo regista, che per noi è un angelo custode, e l'ho sempre detto. Bene, la prima canzone in programma è cantata da John Foster ed è intitolata Non finirò da Marti. Più vivere, soffrendo ogni dì. Lasciami ancora sperare, ma fino all'ultimo Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro Antonio. Ecco, allora, come dicevamo, Bruno Lorenzon è stato uno dei cantori, diciamo, dell'epopea contadina, soprattutto veneta. E ha scritto in particolare una trilogia su questa epopea. Trilogia che il primo è, libro è Drio Arestera, il parlare dei noni, tra l'altro tutti questi libri sono editi da Piazza Editore, che con encomiabile spirito, diciamo, è riuscito a fissare nella memoria tutte queste vicende, queste vicissitudini. Drio Arestera è il parlare dei noni come sottotitolo, il secondo A piede scalzi è il saver dei noni, e il terzo Che a piasa, che a tasa, che a staga casa, naturalmente dedicato all'altra metà del cielo. Allora iniziamo con il leggere alcune di queste considerazioni, se vogliamo, e visto che siamo diciamo in procinto di ospitare Expo 2015, dove si parlerà di nutrire il pianeta, giusto? La sfida è quella. Sì. Parleremo di come posso dire, un approccio antico a questo problema. B come bruscandui. Che ormai quasi ci sono. Ciò che più conta nella vita, dopo l'amore, è il cibo. Anche perché l'arte culinaria del Veneto non è seconda a nessuno e i piatti tipici della cucina trevigiana, dalla soppa coada al risotto alla sbiraglia, dall'oca rosta ai risi e bisi, sono molto apprezzati e godono di una fama che supera i confini regionali. Adesso che una certa moda gastronomica riscopre i sapori genuini di una volta, i prodotti locali tornano ad acquistare pregio e c'è chi, fra i ristoratori più avveduti, ha fiutato il business e ha inserito nel menù i tanti frutti dei nostri campi. Attualmente il radicchio trevigiano precoce e tardivo e la varietà di Castelfranco, oppure il Verdon naturalmente, opportunamente sponsorizzato e commercializzato con indicazione d'origine, sembra farla da padrone e trova facile collocazione ovunque, ma un tempo doveva contendere questa fama ai frati, le erbe, non i religiosi, ai bruscandoi, germogli di luppolo, ai sciopetini e ai funghi, ciodeti e pioparoi. Tornano in auge anche i fiori de succa e perfino i fiori de gasia, che costituivano peraltro, insieme con la pinsa all'Epifania e fritoe a Carnevale e la fugassa a Pasqua, il dessert delle nostre famiglie. C'era chi apprezzava anche le infiorescenze del glicine, badando a non friggere insieme col grappolo anche qualche vespa che vi avesse trovato ospitalità. A dire il vero, nonostante le variazioni sul tema, i pasti consueti, al di fuori delle solennità religiose e di particolari circostanze, erano piuttosto frugali e non prevedevano una grande varietà di piatti. Le donne si servivano di quanto era reperibile sul posto, a chilometro zero diremo oggi, e mai come allora trovava riscontro il detto «ogni frutto a suo staion». A proposito di produzione locali, è interessante ricordare che fino ai primi anni del Novecento, nelle basse roncadesi, a Catron si coltivava il riso, mentre a coniugare pranzo e cena davano una mano la raccolta delle rane e dei sciosi, le chiocciole, la pesca con tremagli e cogui, la caccia, spesso di frodo, e l'uccellagione. Ma cosa mangiavano i nostri vecchi? La prima preoccupazione in verità non era per la linea o per il tasso di colesterolo. L'aspirazione principale era di magnare i suoi bisogni, che non è un'espressione triviale, ma un modo per significare che c'era cibo a sufficienza. Si diceva infatti di chi non gli mancava il necessario, è il gatuto il suo bisogno. Di fronte a questo imperativo la qualità passava in secondo piano, del resto per magnar una buona puenta che vuol una gran fame. Sentenza che, tradotta in altro modo, suona pure «cossega fame, tutto se bon». Con la vita dura che si faceva, specialmente in campagna, e il gran numero di scodelle da riempire, la fame era una condizione frequente e raramente uno poteva alzarsi da tavola passuo, cioè sazio, tanto che anche fra i cristiani c'era chi pareva nato dopo Ascensa, l'ascensione, come si diceva dei gatti magri e spelacchiati. Quando gli capitava, il magnava quattro ganasse e magari de stramuson, e il faceva nettissima de tutto, con o senza companasego, cioè accompagnando o meno la pietanza e il toccio con il pane, o il più delle volte con la polenta, la quale, come noto, era sempre e solo di farina bianca, contrariamente alle abitudini del resto d'Italia, dove usavano e usano tuttora la farina gialla, che da noi, a causa della qualità locale poco adatta all'uso alimentare, veniva utilizzata nella preparazione del paston pare bestie. La polenta è stata per lungo tempo un mito sulla mensa dei nostri avi, ma essa non ispirava nessuna poesia, anche perché la pellagra non la faceva apprezzare come forse meritava. Sostituirla col pane di frumento non era facile. Il pane era considerato un alimento di lusso e, al pari del brodo de gallina, veniva riservato ai convalescenti e alle puerpere. La colazione del mattino consisteva, è ovvio, in una scodella di latte caldo nel quale si inzuppavano fette di polenta abbrustolita. Gli americani con i loro corn flakes non hanno inventato niente di nuovo, ma c'era chi non disdegnava due fette di soppressa, magari appena scotata sui ferri, e un gotto da cabernet o di merlot. Il disnar è un impasto veloce, anche perché, specialmente d'inverno, è il sol magna e ore. D'inverno viene tardi buon'ora, e per lavorare nei campi bisognava sfruttare la luce del sole. Chi tardava a rincasare al tocco di mezzogiorno rischiava di tirare la cinghia e di dover contendere ai familiari il consier rimasto sul fondo de Ateccia, che è comunque il boccone migliore. Beati ultimi, se i primi ga creanza. Anche più del pane era considerato un lusso la carne. L'astinenza del venerdì era un precetto facile da rispettare. Essa veniva sostituita parzialmente come apporto proteico dal largo uso che si faceva di fagioli, freschi o secchi, da consumarsi consi oppure in minestra. Questa veniva servita spesso con il riso oppure con la pasta rigorosamente fatta in casa e spesso tagliata in fettuccine, le tiracche, insaporendoli con striscioline di scorso, cioè la cotenna, e con un penin de porcel o con everse, la bragada. A pasta e fasioi veniva ottima anche la sera, quando la si consumava insieme con il radicchio, denso al punto che il cucciaro che sta in piantà. A proposito di minestre, a seconda delle stagioni e dell'inventiva, si andava dalle più umili, come a Panadea. C'era chi vi rompeva dentro un tuorlo d'uovo. La chiara montata si cuoceva in forno con le spumiglie, ossia le meringhe, alle più elaborate, come il riso da nozze che si serviva quando una fia o un fiol se maridava. In questa occasione se che tirava il coeo al poame. Gaine, dindi, pitoni, cioè tacchini, anera da far roste e oche. Le rigaglie erano utilizzate nel brodo per trarne il gustosissimo risotto coi fegadini. La minestra era il simbolo della dignità dell'uomo che lavorava, appunto, parciaparsi un piatto de menestra, da dividere magari cristianamente con chi era più disgraziato. A casa mia un piatto de menestra te lo troverà sempre. Un altro ingrediente della mensa era, insieme ai fagioli, il raiccio del campo, quasi spontaneo nelle culture intercalari della vite o del frutteto, che veniva consumato tanto crudo che cotto in teccia, reso appetibile con sisso edeardo e un spigo edeaio, e che passava per la famosa bistecca de orto. Capito lì? Certo, la capacità di rendersi, naturalmente, come dire, di farsi parte nel risparmio, nello sfruttamento di tutto, nel rispetto delle leggi della natura. Però notavo anche che sì, i vostri mangiari qui dei Veneti somigliavano abbastanza ai nostri. Beh, il mondo contadino, credo sia. Sì, sì, più o meno. No, ma siccome ogni paese che ha le proprie tradizioni, certo. Però sì, non mi pare che ci fossero tante differenze. Ecco. No, esatto. Benissimo, allora possiamo ascoltarci la seconda canzone. Ci ascoltiamo Renato Zero in una canzone che a me piace parecchio, magari. Dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie, magari magari toccasse a me, ho esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa. Puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà. Magari toccassi a me un po' di quella felicità, magari. Saprò aspettare te domani e poi domani e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerezza è un talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, ho un certo mestiere anch'io, mi provi. Mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi, certo che non mi negheresti due ali. Che è un gran disordine. Ed eccoci di nuovo in studio con l'amico Bruno Lorenzon, il quale era appunto un cultore dell'anima contadina. E sempre dal primo volume di Rio Arestera e il Parlare dei Noni, C come contadino. Per ciaparsi il companasego, da che mondo è mondo, bisogna lavorare, anzi spessegar, a meno che uno non viva di rendita o scelga di fare il mestiere de miceasso, magna bevi e va a spasso. Dice il proverbio, chi lavora guadagna e chi non lavora non magna, e anche se questo significa rompersi a schiena per far quadrare i conti di una famiglia sempre troppo numerosa. È ben vero, e lo era ancora di più nei tempi andati, quando bisognava saper usare le mani e si disponeva di strumenti elementari, che il lavoro se fatica, a fatica fa suar e il suor fa mal. Di fronte a questa affermazione universalmente riconosciuta, qualcuno non mancava di minacciare, me piaceria catar quello che ha inventato il lavoro, lasciando immaginare il trattamento riservatogli. Del resto, l'innata moderazione dei nostri vecchi suggeriva loro di dar credito alla scherzosa invocazione: voglia di far ben saltame d'osso, ma fammi lavorare manco che posso. Rispetto ad un passato nemmeno tanto remoto, una più equa distribuzione delle risorse ha attutito il divario culturale ed economico fra le classi sociali. Ma fino al primo Novecento esistevano tre categorie di cittadini: i signori, che vivevano delle rendite di terreni e fabbricati, i commercianti e gli artigiani, che costituivano, insieme con i professionisti e quelli che avevano fatto e scuole alte, la borghesia. In questo contesto il borgo era inteso come centro di vita civile, in contrapposizione con l'isolamento, anche culturale, della campagna. Infine, i contadini, i diseredati e i pori cani, impossibilitati ad ogni riscatto sociale e soggetti passivi della vita politica ed economica della comunità. A questi ultimi spesso soltanto la Chiesa conferiva un minimo di dignità e di umana solidarietà. La proprietà terriera ancora nell'Ottocento e anche dopo era vasto dominio di poche casate nobili e di signori veneziani, oppure di potenti istituti religiosi che ne sfruttavano le risorse affidando la cura dei propri interessi ai fattori. Essi vigilavano sui raccolti e razziavano la produzione per conto del padrone, al quale andava il meglio, mentre al fittavolo non restava a volte neanche a fede dei buoni costumi. Sulla rapacità dei fattori la voce popolare ha sempre ricamato dicerie e accuse infamanti. No che se fa tor che dopo un anno non diventa un sior. E in realtà succedeva abbastanza spesso che i proprietari, distanti non solo geograficamente dalle loro campagne, lasciassero mano libera all'amministratore. Il rapporto diretto del contadino col paron si riduceva a rare occasioni. Una di queste era la servile abitudine, intesa dalla controparte come un diritto, delle onoranze, ossia il conferimento delle primizie in segno di omaggio e sottomissione. Perdurando questo stato di fatto, anche se i campi da secondo che sei lavora, bisognava accettare l'amara verità che è il contadin se fa sior sempre l'anno dopo. Quasi nelle stesse condizioni si trovava l'operaio passato dalle fatiche dei campi ai pesanti turni dell'officina, ma questo è un capitolo che scriveremo più avanti. Poiché l'economia dei nostri paesi era basata essenzialmente sul reddito agricolo, il mestiere più diffuso era quello del contadino. Tanti erano, e lo sono tuttora, i lavori richiesti dalle colture e dall'allevamento del bestiame: arar, semenar, far suel fen, bruscare e incalmare vide, cioè le viti, sapar piantee, batar formento, spigoear, restear, vendemar, destregoear. A queste attività stagionali si accompagnava la cura quotidiana delle bestie e particolarmente delle vacche. Queste costituivano il maggior capitale dell'azienda e assicuravano, mediante la produzione di latte e di vitelli, la sopravvivenza fisica del nucleo familiare. Bisognava però molserle, starnir, cioè ripulire la stalla dello strame, e sbuassar, cioè asportare gli escrementi. Nelle vicinanze della casa colonica c'erano il barco, dove si riponevano gli attrezzi, e la corte, che, a dispetto del nome, era uno spiazzo dove si riponeva il letame e un poco discosto e il cesso in muratura, che tutelava, meglio delle alte canne del mais, la privacy di chi doveva fare i suoi bisogni. I numerosi animali da cortile fornivano carne e uova e non era necessario stargedrio così assiduamente. Una parte del cibo la trovavano infatti razzolando nel podere e non era difficile integrarne l'alimentazione con i residui dei prodotti dei campi, anche se qualche volta bisognava incoconare i occhi e badare che a ciocca tenesse i pitussi sotto a crigoea, lontano dai raggi del sole, in modo che noi ciapasse a calda. A cavallo fra maggio e giugno parecchie famiglie si affaccendavano intorno ai cavalieri, i bachi da seta, brulicanti su letti di grisioe e insaziabili divoratori di foglie de morer, cioè il gelso, sì, la cui raccolta era affidata a nugoli di ragazzini che ne approfittavano per fare scorpacciate di more. La bachicoltura, capace di integrare il reddito complessivo e praticata fino all'avvento e all'affermazione definitiva delle fibre sintetiche, conobbe nel Trevigiano periodi di grande prosperità con la conseguente creazione di numerose filande in cui molte donne trovavano impiego stagionale. La materia prima proveniva dagli allevamenti domestici. Quando i filugelli, giunti a maturazione, avevano sfilato il bozzolo, la gaeta, bisognava sgomberare i ripiani ed sgaetar, scartando faope e doppioni, quindi il prodotto veniva conferito allo stabilimento per le successive operazioni. L'epoca d'oro della filanda e delle filandere è ricordata in certe canzoni popolari che ne tramandano il mito, mentre i pochi opifici superstiti costituiscono esempi di archeologia industriale. Strettamente connesse alla vita nei campi erano le abilità manuali, aguzzate dal bisogno, che trovavano applicazione nella fabbricazione di oggetti di uso comune e di attrezzi agricoli. Chi viveva in campagna mancava infatti anche delle poche comodità dei piassarotti e doveva ingegnarsi con quello che aveva a disposizione. Il noto proverbio che attribuisce al contadino scarpe grosse e cervello fino era azzeccato, infatti è stato utilizzato anche ora, diciamo, in una versione inglese internazionale da Riccardo Donadon per il motto della sua H Farm: Big shoes and beautiful mind. Fine della digressione. Scarpe grosse e cervello fino. Esatto. Benché a molti avesse fatto difetto l'istruzione scolastica, magari perché a vacca che aveva mangiato i libri, tutti facevano buon uso della testa e delle mani. La rivoluzione industriale e le applicazioni tecnologiche in agricoltura da noi sono andate a rilento, anche per la ragione che la manodopera, intesa come numero di braccia da impiegare nel lavoro dei campi, sembrava inesauribile. D'altra parte, il tipo di conduzione agricola che presupponeva il reperimento sul posto di una grande varietà di prodotti, avendo come obiettivo l'autosufficienza alimentare ed il conseguente spezzettamento delle superfici coltivabili, rendeva poco conveniente l'impiego di macchine adatte invece alla monocoltura. I nostri nonni avevano dimestichezza con seghe, martelli, pialle e trivein. Sapevano fare groppi, assi e gansi. Qualsiasi materiale veniva buono per uno specifico impiego. Con i scartossi dei panocce si imbottivano i paioni, cioè i materassi. Le strope del stroper, oltre a servirsene per legare fascine e tralci, si confezionavano ceste e sporte. Durante le lunghe veglie invernali, intanto che se faceva fiò, si fabbricavano sesso e tamisi, crivei, chebe, coer, cioè la custodia del corno o di legno per riporre la piera da ugar, maneghi e denti de rastel. La numerosa famiglia si riuniva nella stalla, la parte più calda del fabbricato, per contarsi storie e magari per recitare il rosario, finché i più piccini iscominciava a pesar peri e i vecchi a ronsegar, cioè a russare, sì, aiutati da qualche piadena, scodella, di vino caldo. Era un modo di vivere solo apparentemente bucolico e, malgrado le romantiche raffigurazioni di Segantini, vi si respirava una realtà ingrata, raramente condita di avvenimenti piacevoli. Poche e più spesso nulle erano, fra l'altro, le tutele sindacali dei contadini, specialmente di quelli che risentivano maggiormente degli umori dei proprietari. Per i fittavoli, la scadenza dei contratti agricoli in novembre era vissuta talora con apprensione perché potevano non essere rinnovati e in quel caso la famiglia si trovava da un giorno all'altro nella necessità di traslocare e di lasciare libero il fondo. Far San Martin non significava soltanto festeggiare il santo e la sua famosa istadea, ma contrattare un altro anno di fitanza con il signor Paron. E anche qua si vede. Diciamo, questa è veramente un'epopea. È stata un'epoca che è stata, come dire, maldestramente superata, ma proprio cancellata. Diceva anche Andrea Zanzotto. Si sarebbe dovuto superare questa cosa, ma superarla salvaguardando le potenzialità, salvaguardando la memoria, eccetera. È stato cancellato frettolosamente, hanno cancellato antichi casali, eccetera. Qui è stata una, come posso dire, sono passate le cavallette dell'incultura e hanno, come posso dire, fondato, hanno messo i presupposti per la rovina futura che sarebbe arrivata puntualmente. Purtroppo, peccato, perché sono tradizioni queste qua che... Esatto, perché per troppo tempo si è pensato che, diciamo, essere contadini fosse un qualcosa di deteriore, eccetera. In realtà invece, contadino come è sempre stato un imprenditore in prima battuta. Comunque contadini un adesso... filosofo, eccetera. E, il fatto è che occorreva appunto salvaguardare la specificità, eccetera, di questa civiltà senza voler ad ogni costo fare un'azione iconoclasta. Secondo me anche le generazioni, le nuove generazioni non ne hanno più voluto sapere. Effettivamente sì, ma perché... questo è un discorso molto più lungo che faremo fare in seconda battuta. Allora, adesso andiamo alla... Sì, andiamo alla terza canzone, che è cantata è da Laura Pausini. It's Not Goodbye. always too wrong when you've been missing somebody so long. It's just a matter of time, I'm sure. But time takes time and I can't hold on. So won't you try as hard as you can to put my broken heart together again? Until the day I let you go, until we say in studio. Abbiamo ascoltato In assenza di te, la versione in italiano, invece noi l'abbiamo ascoltata in versione americano, vero Antonio? Yes, ecco. Comunque adesso noi proseguiamo col nostro Antonio che ci leggerà altre queste belle bei racconti, diciamo. Esatto, però no? Volevo approfittare per salutare due amici sì, che tu hai anticipato. Ecco, salutiamo Massimo e Barbara, che spero che sì, abbiano saputo che la trasmissione ha ripreso un po' più tardi del solito, però siamo qui, quindi so che sono due nostri proprio ascoltatori fidati. Ok, allora il secondo volume di questa trilogia, A piede scalzi, è Il savere dei noni di Bruno Lorenzon, sempre edito da Piazza Editore. È bello ciò che piace. Qualcuno lo trova repellente, almeno a prima vista, ma pochi rinunciano alla sua compagnia all'ora di pranzo. Parlo del maiale, la cui preminenza sugli altri inquilini non umani della campagna è sottolineata anche dal numero dei vocaboli usati per nominarlo. Dal rustico porcel al selvatico verro, il maiale non castrato, dal genealogico cinghiale allo spregiativo porco. Poche altre bestie godono di altrettanta attenzione, anche se questa non è certamente disinteressata, dal momento che nessuno, che io sappia, lo tiene come animale da compagnia, tranne, sembra, George Clooney, ma questa è un'altra storia. Molto più prosaicamente, il maiale si alleva a scopo alimentare e oggi viene trasformato industrialmente in una grande varietà di prodotti per la tavola. Copare il porcel era presso le famiglie contadine una festa grande che celebrava una risorsa irrinunciabile e una scorta alimentare gradita e soprattutto durevole. Benché con una punta di pessimismo sentenziassero che seppi giorni che luganeghe. La cura che si poneva nel custodire e nutrire il maiale favoriva una certa confidenza tra questo animale e i suoi ospiti, che finivano per considerarlo uno della famiglia. Del resto, quanto a condizioni igieniche e a qualità di cibo, non c'era poi tanta differenza, al punto che si arrivava a gratificarlo del titolo di Barba, zio, rispettosamente, anche se d'accatto, il che però non impediva di ammazzarlo sul più bello quando esso era il colmo della sua stazza e della sua animalesca soddisfazione. Per quanto ingordo com'è, non è detto che il maiale sia facile ad accontentarsi. L'osservazione di frequenti analoghi comportamenti umani ha coniato un proverbio pieno di sapienza: porco in grassa non è mai contento, che si addice a chi vive con tutti gli agi e ancora non si dichiara contento, soddisfatto. Anche per queste ragioni rimane un mistero l'abuso che se ne fa relativamente al nome, che viene adoperato quasi esclusivamente in senso spregiativo per indicare qualità negative o aberrazioni nel comportamento. Il riferimento al maiale, considerato nell'aspetto di animale sudicio e ingordo, era frequente presso i nostri vecchi per esprimere la loro disapprovazione e condannare certi atteggiamenti degli umani non conformi alla morale generale. Fra le colorite espressioni delle quali facevano uso, una in particolare giocava su un trasparente doppio senso. Premesso che la scrofa era detta luglia, la frase nato de luglio non significava nato nel mese di luglio, naturalmente, ma lasciamo intuire i nostri ascoltatori che cosa significasse. Eppure le abitudini di vita di questo suide appartengono alla stessa famiglia, altre varietà diffuse in tutto il mondo non sono più sanzionabili di altri. Anzi, la scrofa, oltre ad essere particolarmente prolifica, che le fa guadagnare molti punti nel confronto con le donne moderne, cura amorevolmente i suoi porcellini, anche se qualche volta il padre è un vagabondo condotto a lei solo di passaggio. In ogni caso, pur ammettendo che il corpulento animale, denigrato il più delle volte a torto, abbia qualcosa da farsi perdonare, il suo riscatto lo si apprezza sulla mensa sotto forma di soppresse, prosciutti, costine, zamponi, bracciole ed ogni altro centimetro quadro del suo corpo. Chi non ha mai mangiato pasta e fasioi, immancabilmente insaporiti coi scorsi, ossia striscioline di cotenna, si è privato di un piacere inimitabile. Benché al giorno d'oggi la gente si dimostri assai più schizzinosa di una volta e periodicamente qualche incauto salutista denunci i rischi di un'alimentazione troppo ricca di grassi, i nostri nonni, ancor prima di nisar, cioè di iniziare il saame, che è il vataya fin in fondo, rancuravano del maiale ogni sissoea e utilizzavano pelle, pelo, cotenna, unghie e ossi per gli infiniti bisogni che li opprimevano. Far su il porcel era un'occasione di festa per le famiglie contadine. L'operazione veniva affidata a una persona esperta, il saader, e consisteva in un rituale complesso e inevitabilmente cruento. In altre parti d'Italia l'addetto alla bisogna si chiama norcino, perché a quanto si dice in passato i macellatori più apprezzati provenivano frequentemente da Norcia, in Umbria. Il periodo adatto all'uccisione della povera bestia andava da novembre a gennaio. Avuto riguardo alla raccomandazione che parché un porcel sia bon che vuol do agosti, ossia deve aver compiuto almeno l'anno di vita. La circostanza forniva l'occasione per socializzare e l'aria festosa che ne conseguiva alla promessa dell'abbondanza induceva gli scherzi, il più consueto, perennemente destinato al successo per il fatto che non mancava di anno in anno un nuovo giovincello destinato alla beffa, riguardava un ipotetico stampo da saiami che il ragazzino, orgoglioso di rendersi utile, veniva mandato a prendere a prestito da una famiglia del circondario sulla quale si era già d'accordo. Succedeva così che il poveretto, obbedendo all'esortazione dei suoi, riceveva dai vicini di casa un sacco con l'imboccatura chiusa con solide strope. E l'ovvia raccomandazione era: sta attento a non farlo cascar, sino se rompe. Con poco sforzo, al contrario di quanto costava l'ingenuo portatore, possiamo immaginare l'epilogo della storia, che finiva con l'offerta consolatoria al protagonista dei primi ghiotti bocconi da ingerire insieme con un goto de vin, il che bastava ad emanciparlo agli occhi dei familiari. Onto come un parcel. Naturalmente, per tradizione, certi giorni erano ritenuti particolarmente propizi per l'uccisione del maiale, o viceversa. Un antico detto recita: Sant'Omè ciapa il porco per i piè. La festa cade il 29 dicembre. Il periodo utile si protraeva fino al termine del carnevale, con l'esclusione tassativa del 17 gennaio, giorno di Sant'Antonio Abate, in memoria della compagnia che costui godette, secondo i suoi agiografi, di un porcellino durante la sua permanenza penitenziale nel deserto. Dalle nostre parti, qui si dice... I preti hanno sempre goduto di grande rispetto, conformemente al consiglio che gli anziani davano ai più giovani e ai più spavaldi. Preti e capitei,

pensieri all'incontrario va. Azzurro. Eccoci di nuovo in studio, Antonio. A te la parola, che dovevi dire una cosa. Sì, una cosa che mi era sfuggita prima, ma che ritengo importante. Per chi volesse andare su YouTube, c'è un filmato da Incontri 1972, un'ora con Beppi Mazzotti, dove lo stesso Mazzotti, Andrea Zanzotto ed altri parlano della distruzione del paesaggio 1972 e del fatto che la civiltà contadina è stata distrutta anziché superata salvaguardandola. Una cosa estremamente interessante. E allora andiamo a chiudere, diciamo, questa trilogia ringraziando sempre l'editore, che ha avuto un'intuizione decisamente meritoria, che a Piazza, che a Tasa, che a Staga Casa è stata l'ultima opera della trilogia di Bruno Lorenzoni. E Femenes come Edone. Perché le donne si abbottonino a rovescio rimane un mistero. Loro si giustificano facendo ricorso a una logica tipicamente femminile e si difendono sostenendo che sono i maschi ad abbottonarsi in maniera sbagliata. Del resto, se osservate come le persone accendono i fiammiferi, vi accorgerete che anche questa operazione non viene compiuta da tutti allo stesso modo. Infatti le fumatrici ne strofinano la capocchia con un movimento verso l'esterno, mentre gli uomini lo fanno rivolgendo la scintilla verso se stessi. Ma non sono queste le differenze più vistose fra gli appartenenti ai due sessi, ce ne sono di più marcate, sia di ordine mentale che di ordine fisico, e per quanto si tratti di due componenti separate della persona, anima e corpo, sono facilmente individuabili. Formano, per così dire, il marchio distintivo della personalità e la identificano come appartenente ad uno specifico genere. A sostegno di questa tesi, i nostri antenati veneti asserivano convinti che e femmine se come donne, ossia non assomigliano agli uomini. Il che non significa tuttavia che esse si somiglino fra di loro. C'è anche chi, animato da sentimenti meno benevoli, sentenzia che non sono tutte uguali, ma che se una peso d'est'altra. Oh, mamma mia, povere donne! Povere L'autore, donne. Nell'accingersi a parlare di donne, memore di un proverbio antico ispirato da salutare prudenza che metteva in guardia gli incauti, parlare de femmines è come sustar un nio de vespe, si sottrae alla disputa limitandosi a riportare opinioni sulle quali volutamente non si azzarda a mettere becco. Si riserva anzi di raccogliere la replica della controparte, ossia come le donne vedono i loro compagni uomini, e riferirà come femmine e maschi si vedevano rispettivamente al tempo dei bisnonni. Insomma, farà ricorso alla diplomazia e adotterà il metodo di darghe una onta e una punta, che è come dire dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Per fare questo potrà basarsi su un ricco repertorio di proverbi, detti e sentenze che, per quanto discutibili o obsoleti, restano a testimoniare una cultura che era diffusa e non limitata geograficamente. È un fatto che gli uomini hanno sempre amato parlare di donne, oltre che di calcio, testimoniando l'interesse grandissimo che essi provano nei confronti del gentilsesso. Anche quando ne elencano i difetti, non fanno che confermare l'attenzione che le donne esercitano su di loro, riconoscendo implicitamente che chi disprezza compra. Questo apprezzamento per le femmine, ancorché difficilmente ammesso dai maschi fra di loro, è bene espresso nella frase rituale dei mariti, quando si mostrano in pubblico a braccetto delle proprie mogli e le presentano come le loro metà. Riconoscimento a volte limitativo di una sovranità femminile che all'interno delle mura domestiche si amplifica fino a ridurre proporzionalmente una quota di autorità dell'uomo che in casa può valere assai poco. Un proverbio mai smentito afferma che se un uomo tien su un canton de a casa, una donna ne tien su tre. Senza dimenticare tuttavia che a donna buona fa buona casa e amata è adesfa. Il movimento femminista ci ha messo in guardia, noi maschi oscurantisti, dal sottovalutare le rappresentanti dell'altra metà del genere umano, che sono sovente intelligenti, deliziose, appetibili, desiderabili. Questo almeno fino a una certa età, avendo riguardo alla constatazione che a 40 anni gli uomini fa pansa e femmine fa stomaco, il limite fisiologico no, da spostare in avanti di almeno 20 anni, naturalmente, grazie alle possibilità offerte dalla moderna chirurgia estetica e non solo, dall'estetica proprio. In ogni caso non si deve chiedere a una signora quanti anni ha, è una domanda impertinente che ne germina immediatamente un'altra a titolo di risposta. Lei quanti me ne dà? Sì, è vero, è vero. In questo caso bisogna vincere la tentazione di essere sinceri. Un antico proverbio oggi fuori moda sosteneva che pari uomini 61 fa 31, pare donne 31 fa 61. Ma si riferiva a uno sfiorire della bellezza femminile che appartiene alle fatiche e alla tribolazione di un'altra epoca, naturalmente. L'età anagrafica è seppellita spesso sotto uno strato di stucco. In ogni caso la donna è un complemento dell'uomo, la scarpa sinistra che fa il paio con la destra e permette di non dar sotide un piè, anche se a volte è causa di dolore perché gli va stretta. Ma le donne che conosciamo oggi non sono le stesse rispetto a un passato nemmeno tanto remoto. Negli ultimi 60 anni esse hanno scosso visibilmente l'autorità dei signori uomini e avanzato il fronte delle rivendicazioni, sconvolgendo i criteri di giudizio di una società a guida maschilista che considerava l'alta metà del cielo con eccessiva severità. Già è stato detto che uomini e donne costituiscono le due facce di una stessa medaglia, situate però su lati opposti. È la diversità che rende le donne così affascinanti agli occhi dei maschi, per i quali il criterio di giudizio è soggettivo, e lo prova il fatto che per quanto chi nasce bea adota in scarsea, ossia trova più facilmente marito, si sposano anche le brutte. Queste, con buone ragioni, possono citare a propria giustificazione il detto «E beh, vai bien e brutte se mantien», condizione che una volta accettata evita al coniuge delusioni postume e l'assillo della gelosia. In ogni caso, tutte aspirano al loro personale principe azzurro e fino al momento dell'incontro fatale, fatale per lui, si intende, si sforzano di convincerlo che sposarle è un affarone, ma i bisnonni consigliavano di non fidarsi perché Adonas è come castagna, bea de fora e drento a magagna. Perseguendo questo fine, le donne si ingegnano di esibire tutte le qualità di cui sono dotate e qualche altra se la inventano. Esse dispongono di argomenti assai convincenti, secondo una scala di valori inversamente proporzionali a quelle che esse pretendono in un uomo, del quale considerano secondaria la bellezza, privilegiando l'intelligenza e altre qualità, non ultimo lo spessore del portafoglio. Si ricorda che una volta a un ricevimento un uomo molto ricco e famoso, che però non era certamente un Adone, fu avvicinato da una vezzosa signorina che lo interpellò con civetteria non disgiunta da sfacciataggine. «Pensi», gli disse la bellona, «che meravigliosi bambini nascerebbero se unissimo la mia bellezza alla sua intelligenza». «Ma lei non ha considerato», disse di rimando quello che non mancava di arguzia. «Cosa succederebbe se i pargoli ereditassero la mia bellezza e la sua intelligenza?» Arrivare in ritardo non è una prerogativa esclusiva dei treni, ma pure delle donne che devono farsi belle, degli artisti che spesso sono dei presuntuosi e degli uomini politici che si credono indispensabili, anche nelle occasioni più importanti. Non si è mai vista una sposa arrivare puntuale alla cerimonia nuziale per pronunciare il fatidico sì, uno dei pochi assensi con conseguenze durevoli. Per il resto, ai fini di una risposta, risulta del tutto ininfluente quel che sia condensata in un sì o in un no, essendo noto che le donne, come i gatti, hanno uno spiccato senso dell'opportunismo e ciò che vale ora non vale più fra 30 secondi. Non serve rinfacciarglielo. Come sostiene Woody Allen, non ostinarti a contraddire le donne, lo faranno da sole. Basta, considerare la volubilità con cui cambiano la pettinatura, le scarpe o la borsetta. Il tempo che essi impiegano a scegliere il look del momento è molto superiore al tempo durante il quale lo adotteranno. Per un bipede normodotato è incomprensibile il motivo per il quale evitano come la peste di indossare lo stesso vestito per più di qualche volta, a meno che non si facciano suore, naturalmente. Evidentemente le assilla la preoccupazione di perdere interesse agli occhi degli uomini, ma non manca loro la capacità di sorprenderli con discorsi ed atteggiamenti assai originali che fanno parte del loro abito mentale. Insomma, naturalmente mi pare che sì. Non ho potuto leggere la premessa, che era quella naturalmente di una grande considerazione da parte di Bruno per l'universo femminile, e naturalmente credo che sia del tutto condivisibile. E quindi andiamo io ad ascoltarci. Ringrazio. Andiamo ad ascoltarci l'ultima canzone. La notte. La notte di Adamo. Adamo. Adamo. posso non pensarti. La notte mi maledico te, e quando infine spunta l'alba c'è solo vuoto intorno a me. La notte tu mi appari immensa, in vano tento di afferrarti, ma ti diverti a tormentarmi. La notte tu mi fai impazzir, la notte mi fai. Speranza, ti voglio tanto bene ancora, per un istante riappari, mi chiami e mi tendi le mani, ma il mio sangue si fa ghiaccio quando ridendo ti allontani. La notte mi fa impazzire, mi fa impazzire. Il giorno splende in piena pace e la tua immagine compare. Felice tu ritrovi l'altro, quell'altro che mi fa impazzire la notte. Eccoci di nuovo in studio e ormai siamo arrivati all'ultima tranche di pochi minuti. Comunque, siamo sì, per i saluti e anche per qualche considerazione su questo, sì, con questo universo contadino, appunto. Ingiustamente snobbato per molti anni e che invece anche, diciamo, viene in mente sempre l'Expo che ormai è prossimo a nutrire il pianeta e tutte queste cose, e l'importanza dei contadini. Nei confronti, come posso dire, delle entità che gestiscono migliaia e migliaia di ettari, eccetera. Devono convivere le due realtà, però non si può cancellare questo che è stato il grande merito della civiltà contadina. Comunque io vado ogni tanto al chilometro zero. E queste sono cose interessanti. Diciamo che non si può demonizzare il progresso, no, naturalmente, ma cancellare il passato è un sicuro modo per andare a sbattere. Il profumo che tu senti quando arrivi lì di verdura, è una cosa che ti fa tornare indietro negli anni. Assolutamente, assolutamente. No, però è cosa interessante che mi ricollega anche all'amico Tiziano Spicariol che sentiremo andando avanti, anche perché è in atto una interessante operazione di recupero che non più che speriamo, siamo certi darà i suoi frutti. Bene, allora lo sentiremo tra poco. Non ci resta allora che salutare tutti quanti. Salutare tutti, ringraziare naturalmente, io reitero, nel senso che rinnovo il mio ringraziamento a tutti coloro che ci ascoltano, le amiche, gli amici e anche a coloro che naturalmente ci seguono tanti, in streaming. Certo, guarda che abbiamo diversi amici che ci seguono. Benissimo. Bene. Grazie e alla prossima allora volta. Alla prossima domenica e come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.